herói, tamo no olho de herói. Tamo no olho de herói, no olho de herói. Siamo noi gli eroi, noi gli eroi, siamo noi gli eroi, noi gli eroi, noi, noi senza un posto, un soldo, un Rolls Royce, noi gli eroi, chi? Noi gli eroi, chi? Noi che comunque ancora gridiamo sì, uno split non mi basta, no, tirami su qualcos'altro prima che cazzo mi tiro sulla tua piazza, siamo gli eroi che non vedi i giornali, no. Se non perché mi ha beccato per un po' di robe illegali, siamo noi che non basta, anche a casa si sclera, siamo noi che in lavoro magari se c'era, chi si scorda di chi ha perso il posto qua sotto, dei miei soci, di Bupi, di Bube e Boboldo, ma di noi a chi importa se non agli sbirri, gli interessa la mia impronta, la patente, i miei figli, viviamo nella noia dei tuoi webchat, che non c'è più chi la ingoia se non i webcam, siamo i più grandi, abbiamo perso come in Vietnam, ma in città abbiamo i fans e il rispetto, fra, finché lo perdo il piatto io rimango qua, perché la vita non sai mai cosa riserva, chissà. Siamo noi gli eroi, noi, noi gli eroi, noi, noi senza un posto, un soldo, un Rolls Royce, noi gli eroi, chi? Noi gli eroi, chi? Noi che comunque ancora gridiamo sì. Siamo noi gli eroi, noi, noi gli eroi, noi, noi senza un posto, un soldo, un Rolls Royce, noi gli eroi, chi? Noi gli eroi, chi? Noi che comunque ancora gridiamo sì. Sono un eroe, non mi faccio condizionare, sono un eroe perché vivo in condizionale, non condizione mi hanno detto di non fare del male, ma l'assistente sociale a me non mi sta a ascoltare, io che gli dico siamo cresciuti con i film alla sera, da Scarface con delirio e paura a Las Vegas, siamo noi quelli che senza se senza ma sognavano di fare po' come Steven Seagal, viviamo dentro un poliziesco qui a Taxi Drive, io che sognavo il culo al fresco tra Sexy Night e come Nokia e l'FBI, non mi aprete mai, non resto fuori da qua, ma sono più fuori lo sai, chissà se morirò o se ricorderei me come una star dalla vita, un fallito del rap, ma siamo noi quegli eroi con i becchi e il cappello, e sai qual è il bello, che non sappiamo cos'è il successo. Siamo noi gli eroi, noi, noi gli eroi, noi, noi senza un posto, un soldo, un Rolls Royce, noi gli eroi, chi? Noi gli eroi, chi? Noi che comunque ancora gridiamo sì. Siamo noi gli eroi, noi, noi gli eroi, noi, noi senza un posto, un soldo, un Rolls Royce, noi gli eroi, chi? Noi gli eroi, chi? Noi che comunque ancora gridiamo sì. Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap t